potreste avere un calcio senza scopo di lucro. Purtroppo il lucro incomincia quando andate in massa allo stadio, quando accendete la tele per guardare calciatori, veline, quando producono i gadget e voi li acquistate, partendo dalle scarpe, magliette, asciugamani, terminando nelle dirette che acquistate da bravi. Voi siete schiavizzati da questi campionati, siete stati un po' incantati da ricchi magnati. Il vostro potere d'acquisto misto al vostro contesto lo gettate in agitate scazzottate, date tra le gradinate, va dirate, non capite che queste capate vi vengono innestate. Voi mo che aspettate che vi rubino anche le panche dove va settate? Ma dai, appendete, sì appendete, che così il tempo lo sprecate, piuttosto migliorate le vostre abilità e sciogliete più capate.